Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Praticamente tutto un mondezzaio. Cioè vanno là gli impiegati la mattina, gli operai, alle 6 della mattina, alle 7 della mattina si mette a parlare fuori. Ci stanno di fronte della gente che sta malata. Si presume che potreste dare fastidio. E poi siete tutti uomini, avete un mondezzaio. Oh, ma le sica ci sta le cose, le zoccole così grosse. Io adesso prenderò, compro anche il fucile, perché ti ingasparà sti zoccole. Poi darsi pure che mi sbagli che qui a cacchetto uno di questi. No, ma per dirti, ma non è giusto. Voi il sindaco di Pescara, voi ci stanno le elezioni, ma perché dovete avere questa putridume là? Io invito minimo 10 padri di famiglia di quella zona che le mazze da golf con gli esempi, con la buona, non si ottiene niente. Là te ne ma fa la guerra, sa da litigare, lo volete capire? Non istigare alla violenza, ci stanno violentando a noi. Questo è un signore molto arrabbiato, un cittadino di Pescara che protesta contro la sporcizia nella sua città. È un esempio di protesta popolare con toni accesi, nulla a che fare con un profilo Facebook di un'hostess americana che sta spopolando in questi giorni su Facebook. Questa hostess, che è diventata un vero mito, non si sa bene se la esista veramente, se sia un'hostess identificabile o sia soltanto una sorta di nome multiplo in cui tutte le hostess convergono per far vedere anche loro gli esempi di sporcizia, sta pubblicando su Facebook, facendo le foto con il proprio smartphone, tutti gli esempi di maleducazione e sporcizia dei passeggeri degli aerei, delle cose terribili come lasciano il bagno, si tolgono le scarpe, appoggiano i piedi sul sedile, mangiano cose schifose, fanno insomma delle sconcezze uniche. Questo porta a pensare che in realtà esista una sorta di reazione istintiva, irrituale, non codificata, al di là dei ruoli, al di là della collocazione geografica, del livello di cultura, dell'ambiente che si frequenta, contro la maleducazione altrui, contro gli esempi macroscopici e schifosi in cui gli esseri umani dimostrano di avere nessun tipo di cura, di attenzione, nemmeno di accorgersi dell'esistenza di altre persone attorno a loro. Beh, quante volte nel vostro ambiente di lavoro, nell'ambiente in cui lavorate, nella vostra automobile quando ci sale qualcun altro, questo è un discorso mi sento fare spesso dai tassisti quando mi capita di prendere un taxi, ma anche negli autobus, anche le persone che svolgono particolari professioni come le persone che lavorano negli alberghi ad esempio, o le persone che si occupano comunque di rassettare le case altrui. Quali sono le cose più orrende, più schifose, più indicibili che trovate nel corso della vostra giornata, che lasciano delle tracce indelebili dell'infame bestialità degli esseri umani? Beh, questa mattina vorrei raccoglierne qualcuna, proponendone altre che già appartengono a una nostra precedente rassegna. 800240024. Fate anche voi come l'hostess americana, segnalate in questo spazio di tempo, nell'ora del soffritto, quelli che sono gli esempi più schifosi maleducazione degli umani con cui avete malauguratamente incrociato la vostra esistenza. Il rapporto cameriera-cliente è come il matrimonio e la convivenza. Fino a che sei fidanzata, tu conosci il tuo ragazzo, ci esci, vai a cena e non vivi nella stessa casa, quindi non lo conosci fino in fondo. Quando poi ci vai a convivere, conosci la persona in se stessa, come è fatta in bagno. Ecco, questo è il primo esempio, la cameriera di un albergo. Noi quando andiamo in albergo non ci rendiamo conto che poi la maniera in cui lasciamo la nostra camera d'albergo non viene valutata da una macchina, da un pulitore automatico, ma c'è un essere umano come noi che comunque va via via raccattando le sconcezze che lasciamo in giro, lo stato delle lenzuola che noi abbandoniamo, lo stato del bagno, in generale lo stato della stanza che noi attraversiamo. Esiste la malaugurata convinzione, pregiudiziale naturalmente data da maleducazione, che in una stanza albergo si possa fare qualunque cosa, che il bagno in un albergo possa essere lasciato in qualunque maniera, come probabilmente i passeggeri dell'aereo della nostra hostess americana penso che in aereo, siccome si paga il biglietto, ogni cosa sia lecita. Beh, non è esattamente così. 800240024, qual è il vostro punto di vista? Quali sono le sconcezze a cui dovete far fronte ogni giorno? Ma forse anche voi, madri di famiglia, abilitate a tutti gli effetti alla sopportazione altrui massaie, forse voi maestre, insegnanti viandanti, persone che attraversano luoghi pubblici, che avete come compito e incombenza quotidiana semplicemente di occuparvi degli spazi attraversati da altre persone. Qual è il luogo in cui maggiormente gli esseri umani mostrano la loro inciviltà, la loro incapacità di pensare che altri esseri umani attraverseranno quei luoghi e le tracce indelebili che una volta, che ogni tanto lasciamo con il nostro passaggio, non sempre sono gradevoli ad essere eliminate? Gino, buongiorno. Buongiorno. Le volevo far presente una cosa. Io sono andato in Puglia quest'estate, esattamente nella zona sotto Gallipoli, e nonostante sono andato di giù perché c'era un mare bellissimo, spiagge quasi incontaminate, quando queste sono gestite da privati, vi dicendo, ma la cosa che mi ha lasciato proprio sbalordito è il pattume, i sacchi del pattume che ho trovato lungo la strada. Addirittura c'erano dei cassonetti del pattume che li tenevano aperti con un pezzo di legno, perché le persone, non so se questo i pugliesi o i villeggianti che erano giù, piuttosto che aprire il cassonetto con l'apposita leva, lasciavano i pattumi proprio fuori, cioè ammucchiati fuori del cassonetto. Ma questo, guardi, non credo che sia una prerogativa tipica dei pugliesi. Ho memoria di una mia scampagnata nei Monti Sibillini, pensi, uno dei posti che... Non so se... No, ma diciamo esiste una genia di umanoidi che in effetti quando hanno un contatto diretto con la natura, cioè vanno a fare una scampagnata o si fermano a mangiare un panino lungo la strada o magari vanno al mare, vanno in montagna, nei luoghi di villeggiatura e si portano dietro delle vettovaglie, penso che tranquillamente possa esistere una sorta di autosmaltimento immediato, ciò che loro abbandonano. Io mi ricordo, passai un giorno di Ferragosto assieme a una persona che stava con me a raccattare le schifezze altrui, perché non potevo vedere quel prato di terre che erano particolarmente legate alla mia esperienza di ragazzo, in cui avevano lasciato montagne di piatti di carta, di bicchieri di carta, di bottiglie, e rinunciai a mangiare perché mi era passata la fame, per mettere a posto le sporcizie altrui. Molte volte esisteva una vecchia leggenda che dicesse, ai primi tempi di Publitalia, Berlusconi e i suoi uomini: se entrate in un bagno e lo trovate schifosamente lordato, pulitelo anche se non è roba vostra, perché la persona viene dopo di noi e dopo di voi potrebbe pensare e accusarvi a voi dell'orrenda insozzatura. Ecco, questo per dare l'idea che molte volte ci sente forzati a mettere mano all'orda barbarica che è passata prima di noi. 800240024, quali sono le lordature a cui avete fatto fronte? Alfredo. Sì, pronto? Sì, scusate, ma sono in auto. Niente, la schifezza maggiore è quando la gente porta in giro i loro cani e li fanno fare le loro cacche nei giardini dove giocano anche i figli. Ecco, altro punto interessante, proprio vero questo, sì, la lordatura del cane, intoccabile, indicibile, perché se uno lo dice viene subito tacciato con vergogna di prendere sul povero animaletto, ma è una cosa schifosa. Scusami, mi fermo un attimo, altrimenti non riesco a parlare. Sì, bene. Se mi rendo conto che l'emozione dura a trattenersi di fronte a questo. Ah, no, semplicemente. Perché sta guidando in autostrada. Dicevo che io il mio cane lo porto a passeggio e il mio sacchettino che. Si porta il sacchettino, raccogli cacata però, di cane, certo. Insomma, c'è questa gente che sia piccolo, che sia grande, che sia. Vanno lì, non si curano nulla e lasciano di tutto e di più. Insomma, fa un po' schifo, anche perché in un mondo dove si pensa che i cani devono essere difesi di più degli umani, non c'è neanche quella sensibilità di tenere pulito il loro schifetto. Insomma, tutto qua, ecco. Grazie. Io posso portare un mio esempio personale. Ho immortalato con un video su YouTube, perché ho trovato fantastico e allo stesso tempo paradossale che per 3 giorni in un cassonetto lungo Viale Mazzini, sotto un cassonetto lungo Viale Mazzini, c'era un innominabile oggetto che qualcuno aveva buttato lì, probabilmente non avendo nemmeno forza di aprire il cassonetto, ma probabilmente non aveva nemmeno risolto il dilemma in quale cassonetto differenziato metterlo. Era l'innominabile oggetto, c'era la scatola accanto con scritto sopra e fuori l'oggetto fuoriuscito, era l'enteroclisma femmina, di cui qualcuno si era liberato di questo clistere con la scatola, è rimasto per terra. Nessuno ha avuto il coraggio, nemmeno gli operatori ecologici, di prenderlo e buttarlo dentro il cassonetto, quindi per 3 giorni, come ludibrio e obbrobrio di una strada nota della città di Roma, c'è stato per terra. Ogni volta che passavo vedevo questa sorta di clistere col tubetto, col sacchetto appoggiato per terra, e pensai di immortalarlo facendoci un video, perché mi sembrava divertente che fosse ritenuto necessario da qualcuno avere il cassetto per lo smaltimento di rifiuti particolari come appunto l'enteroclisma femmina. Il cliente di solito non è mai imbarazzato di quello che lascia in camera, perché lo sa che la camera la pulisce una persona. Quindi quando si incontra nei corridoi non è che si fa un pochino di pudore e dice oh madonna mia, fa niente. Lui è così, così come lo vedi, totalmente diverso in camera. A parte il disordine che lasciano in camera, poi non so, mangiano le noccioline che sono nei frigobar, te le lasciano in giro così. Sputano nel lavandino anziché, non so, cioè il nocciolo della mela invece che buttarlo nel cestino che è in bagno oppure in camera, lo sputano nel lavandino. Guarda, l'ultima volta si è capitato che sono entrata in camera, la camera era bellissima, sta persona aveva solo dormito, ordinatissimo, come se mai si è appoggiato sul letto. C'era la porta chiusa del bagno, apro la porta, tipo che c'era vomito dappertutto, addirittura le piastrelle del bagno. Mi sono voluti 2 giorni per pulire quel bagno. Lo so, il povero insonne in realtà aveva grossi problemi gastrici, aveva insozzato di vomito, o forse aveva una sua crisi di possessione diabolica, non si sa bene, probabilmente, o si era imbracato al punto tale che era entrato ubriaco, ha vomitato in bagno e ha dormito con la testa infilata nel bidet. Questa è il martirio quotidiano di una cameriera d'albergo, ci ha raccontato quello che deve affrontare lei ogni giorno. Marco, buongiorno. Buongiorno. Il putridume nei bagni della scuola è incredibile, tra docenti e allievi. Lei da che punto di vista lo vede? Come docente o come addetto alle pulizie? Come insegnante. E spesso mi capita di entrare in bagni dove la collega precedente è diventata una macchiaiola dei muri in virtù del fatto perché i diarrei si è anche posto il problema di pulire. La collega, cioè la sua collega professoressa? La professoressa, sì, che non hanno rispetto anche di chi fa questo lavoro. Cioè schizzano sui muri i professori? Sì, ma non sono assorbenti dappertutto. E non parliamo di una crisi mestruale probabilmente. Sì, no, ma anche il problema è che la cosa più vergognosa non hanno rispetto di chi usa i bagni della scuola. Cioè ci sono 700-800 persone che vanno ai bagni e dopo la prima ora è già un letamaio, una cosa vergognosa. Allora non c'è rispetto proprio di questo. No, allora, dei ragazzi, non dico posso giustificarli, ma in parte sono ragazzi, ma mi preoccupa il fatto che i suoi colleghi non abbiano nemmeno, diciamo, la dignità di usare il bagno dei professori, è quello che avete soltanto voi la chiave. No, allora i colleghi maschi orinano ovunque, senza porsi il problema di... Come cani? Come peggio, perché i cani hanno la direttoria. Ma questa è una notizia sconvolgente. No, ma allora, le docenti... Ma ovunque dove? Nei cassetti, no. Nelle cattedre, oppure... No, per capire, lei dice ovunque. No, allora, guardi, ovunque nel senso che si entra nel bagno, sì. Allora il bagno che è abbastanza grande comunque, certo. Uno potrebbe mirare il buco, no, allora il coperchio, mica è facile per tutti. Ecco, insomma, le donne poi che fanno? Magari non si siedono da attacchi di diarrea, sforzano dappertutto, non si può neanche problema di lavare. Ma l'ora di pranzo, cioè. Sì, vabbè, insomma, io capisco, no, lei è sconvolto, quanti anni sono che è insegnante? Allora, io sono più di 25 anni. E mi rendo conto. Sì. Allora, la cosa delle colleghe, le ausiliarie, che dicono, hanno individuato chi è la collega, chi sono i colleghi. Ah, la lordatrice allora, l'avete individuata? Ah sì, sicuramente. Allora tutti quanti, prima di entrare dentro, si sincerano chi è entrata prima, capisce? Cioè, ma perché non glielo dite, scusa cara? L'abbiamo già detto, l'abbiamo anche sottoposta... Regalategli l'emodium, non so, queste cose... No. Tappi di sughero. Tappi. Vabbè, capisco, lei è molto esacerbato, interrompo questa dolorosa telefonata anche perché è l'ora del soffritto, potrebbe indurre le ascoltatrici a cambiare stazione, non vorrei assolutamente. Continueremo la seconda parte in maniera molto più urbana, ma capite, lo sforo di questo docente da 25 anni deve sopportare la lordatura di sue colleghe che non tengono conto della sua sensibilità. Melog. Cronache meridiane. Gli stranieri sono più puliti degli italiani, purtroppo sì, questo devo dirlo. Maggiormente gli inglesi sono molto più puliti e ordinati. Se parliamo poi di stranieri che vengono accompagnati da italiani, c'è cioè una metà e una metà. Dipende dalla coppia com'è, se è proprio straniero che viene un viaggio di visita in Italia, sì. Se sono gli stranieri che vivono in Italia e vengono in albergo, no. Io insieme al foglio delle camere ho anche quello dei nomi, quindi io so la persona che è in camera, come si chiama e quindi dal nome riesco anche a risalire chi è come persona Mettiamola così, questa trasmissione ha una funzione depurativa, nel senso oggi probabilmente molti non mangeranno, ma vi va bene per un giorno, la gente si arrabatta per fare diete, per trovare scamotage per non mangiare, mi rendo conto che l'appetito a me è passato completamente, non so se mi tornerà per questa sera. 800240024, ma se vogliamo fare la radio di servizio dobbiamo toccare fino in fondo quelle che sono le nequizie umane, quindi in questo caso ci rendiamo conto dei luoghi della schifezza umana nascosta. Noi mettiamo sotto il tappeto la polvere della nostra maleducazione, qualcuno deve raccoglierla. Vi leggo qualche sms, però moderandomi, capito, naturalmente. Allora, vediamo un po' un attimo se posso leggerla questa, sì, proviamo. Nell'albergo, nel 2012, i turisti tedeschi hanno appeso un preservativo usato al lampadario, mi ha raccontato mio fratello cameriere presso un albergo 4 stelle a Ostuni. Beh, volevano creare un'atmosfera, evidentemente c'era una luce troppo forte. Ho un ristorante, non ti dico come trovo i bagni di servizio, da paura. Poi, salve, il mio orrore, spalmate sotto il materasso, no, non ve lo posso dire, con la cena, un bed and breakfast. Poi, i parchetti urbani, stato di abbandono più totale, terra di nessuno, pieni di sporcizia e incuria, naturalmente nessun controllo. Non sopporto quelli che buttano mozziconi in mare. Un collega va litigato col sapone, non si lava mai le mani, mangia e spulisce i denti con le dita. Poi tocca il mouse e il telefono e nessuno vuole lavorare nella sua postazione. Anch'io sto prendendo l'idea di fotografare cassonette a mia zona vicino Roma. Degli enormi mostri puzzolenti informi in continua crescita e trasformazione. Hanno una loro vita umana, i cassonette, nel senso umanoide. Crescono, diventano una sorta di blob di spazzatura. 800240024. Ormai abbiamo fatto il disastro, tocchiamo il fondo. Quindi andiamo al punto. Andrea. Ciao, buongiorno. Io giusto volevo portare la mia testimonianza lavorando nel settore delle vetture. Io sto notando proprio una, come restituiscono le auto noleggiate, ecco questo. No, ma al di là delle auto noleggiate, proprio noi, se parlo del settore di riparazione, arrivano delle vetture con veramente la spazzatura da giorni, magari alcuni poi ad esempio dicono: guardi, ho dimenticato la spazzatura da due giorni, l'umido, quello che... Ah, proprio l'umido della spazzatura, sì, la lasciano, sì, nel, sì, bagagliaio. E poi la, praticamente ce la consegnano in officina con... Beh, la smaltiscono in officina, ecco. Sì, ma praticamente sono veramente... col pesce morto dentro. Al limite del paradossale. Altre cose? Escrementi di cani. Dentro gatti, la macchina. Cofani, nelle vetture, insomma... Veramente, beh, quando uno c'ha il cagnolino non sa dove fargliela fare, alza il cofano, nelle vetture, la fa al caldo. C'è una tendenza all'aumento delle problematiche legate proprio ai rifiuti nelle vetture, proprio nelle macchine che ritengono i contenuti. Allora, questo è un altro luogo inesplorato, se ne sa poco. Carla, sì. Invece. Carla, buongiorno. Buongiorno, io chiamo dalla macchina, mi sente? Buongiorno. Sì, lei dà ragione al suo collega che ha chiamato prima. Sì, esatto. No, ma nella mia scuola in particolare c'è la guerra, diciamo, tacita tra docenti e bidelli. Il risultato, il nostro bagno è sempre sporco, quello dei docenti. Quindi la sottoscritta ogni lunedì mattina, prima di prendere servizio, si mette a passare con lo sterilizzatore, praticamente un prodotto che ho portato io da casa, e passo tutto, water, bidet, piastrelle, lavandino, porta, tutto quanto, perché altrimenti nessuno ha il coraggio di entrare. Quindi loro aspettano, dicono, tutti, che non ce la fanno. Aspettano tutti che passi lei e disinfetti, poi vanno in bagno, naturalmente. Esatto, esatto, ormai è diventata una prassi, io lo faccio, non c'è problema. Ma le altre colleghe non dicono: oggi ti aiuto anch'io a dare la mucchina, a dare il disinfettante, l'acido, no? No, no, però se fanno altro, tipo ragnatele, altre cose, quindi ognuno collabora come può. Ma quindi lei è esperta proprio della pulizia dei sanitari, le altre puliscono, diciamo, il, sì, soffitto. Esatto. Vabbè. Esatto. Vabbè, un bricolage da dopo lavoro per insegnanti, mi sembra logico. Vincenzo. Vincenzo è morto. Mario. Mario da Terni. Mario, ciao. A Terni, io che succede? Parlando proprio di questo caso dei bar, dei ristoranti, dei bagni, a Porto Ercole levato in un bagno di un ristorante, e mentre ero in bagno, poi neanche pulitissimo, leggo un cartello appeso sul bagno, c'è scritto: tenete pulito perché le stesse mani che puliscono questo bagno sono quelle che vi servono. Chiaramente io... Beh, un deterrente psicologico notevole, interessante. Sì, sì, sì, però infatti ho fatto anche la foto perché mi sembrava un cartello veramente agghiacciante per il periodo in cui viviamo. Cioè, fa venire la stipsi anche al più sprocedato dei frequentatori del bagno, pensando. Benissimo. Però insomma non è neanche carino leggerlo. Però se uno va in bagno prima di andare a prendersi, no? Il caffè, poi il caffè non se lo prende manco morto. Infatti. Però è un deterrente per dire: io con queste stesse mani pulisco le vostre schifezze e poi vi giro il cappuccino. È chiaro, è logico che questo aiuta comunque a mantenere un atteggiamento più urbano. Vincenzo. Eccoci qua. Sì. Sì, allora io volevo parlare di un turista americano in Puglia, questa la mia amata Puglia. Era così affascinato dal posto, dalla spiaggia libera, posto che noi frequentavamo, che ogni giorno dedicava del tempo della sua vacanza a pulire. Si portava i suoi guanti da lavapiatti, ci spendeva un'oretta, 2 ore, e puliva quello che poteva. Molti di noi guardavano, faceva a testa bassa senza dare l'esempio, niente, lo faceva perché il posto per lui era bellissimo e secondo me aveva la sensazione che era un orrore, era mostruoso lasciarlo in quelle condizioni. Sì, ma io l'ho detto all'inizio della trasmissione, anch'io sono stato colto dalla stessa sindrome. Era un prato fantastico nei Monti Sibillini, zona che amavo tantissimo quando ancora frequentavo quelle zone lì, vedendo mucchi di spazzatura per un dopo Ferragosto di dei cialtroni, e ho passato la giornata a togliere i cassetti, i cassonetti e la roba che hanno lasciato loro, non potevo sopportarlo. Carmen. Salve. È uno scoop il suo. Una stima enorme per quello che ha detto adesso, perché anch'io faccio la stessa cosa. L'unica cosa è che poi ti senti dire che ti vuoi distinguere e che vuoi essere al centro dell'attenzione. Va dalla sua esperienza di vita, Carmen, che ci allora, interessa. Allora, in albergo, ho lavorato in un albergo come cameriera, molto bello, non dico il nome, e c'era come cliente Klaus Kinski con una sua amante dell'epoca. Che come hanno lasciato il bagno Klaus Kinski? No, guardi, mi vergogno. No, lo dica, bisogna saperlo. No, ma quale bagno? Nel vassoio della colazione c'erano assorbenti interni. Sì. Che io buttavo, poi tutto, mi vergognavo a pulirle, sì. Cioè mi faceva schifo addirittura lavare. E lui invece come lasciava? L'amante lasciava gli assorbenti, ci facevano probabilmente. Era uno schifoso, adesso non c'è più, ma l'abbiamo poi fatto andare via otturando di proposito lo stesso. La notizia è questa: Klaus Kinski, buonanima, otturava il bagno e la sua amante lasciava gli assorbenti nel vassoio. È una notizia anche questa. A domani.